non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini, che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! Le preghiere, ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza grande, sei già abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Hey! Hey! 16:10. Niente da fare, non fare la vittima se ti devi sacrificare. Questi sono gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Hey! 06 49 17 50, se volete intervenire durante la trasmissione, chiamate. Se invece volete comunicare con noi in un altro momento, ora di buco chiocciola ondarossa.info è la nostra mail, così come ora di buco.noblogs.org è il nostro blog in cui trovate tante cose, comprese le puntate già andate in onda. E la puntata di oggi abbiamo deciso di dedicarla a una tematica importante che fino ad oggi abbiamo così annunciato di voler trattare, ma di fatto non avevamo mai trattato, e cioè parleremo delle pulizie delle scuole e in particolar modo dei lavoratori e delle lavoratrici che lavorano all'interno delle scuole ma che non sono dipendenti del Ministero dell'Istruzione. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Qui con noi oggi c'è un lavoratore di queste ditte che fra l'altro in questi giorni sono, diciamo, in trattativa risolvere annosi problemi che datano dall'istituzione, insomma, di questa forma di intervento nelle scuole. E intanto, siccome siamo convinte e convinti che ci siano molte persone che non hanno idea di come funzioni la pulizia nelle scuole, cioè forse è la prima volta che sentono parlare di ditte di pulizia nelle scuole, magari credono che questo venga fatto dovunque e comunque dai collaboratori scolastici, cioè dai bidelli, le bidelle come si chiamavano una volta, allora vorremmo chiedere, scusa, non ho Maurizio De Martino. A Maurizio, appunto, se ci spiega brevemente da quando data appunto questo metodo all'interno delle scuole e insomma come è stato gestito in questi anni. Allora, salve a tutti. Salve a tutti, sono Maurizio De Martino, un lavoratore dell'appalto di pulizia e nonché dirigente sindacale. Un attimo solo che sistemiamo il microfono. Allora, salve a tutti, sono Maurizio De Martino, un lavoratore dell'appalto di pulizia, nonché un dirigente del sindacato USB. Allora, facciamo magari un attimo il punto, una cronostoria di come nascono questi appalti nella scuola. Noi nasciamo da progetti comunali, provinciali e regionali di lavori socialmente utili. Abbiamo svolto all'interno delle scuole vere e proprie mansioni di collaboratore scolastico. Dopodiché nel 2001 venimmo assunti dai consorzi che vinsero un appalto, l'attuale, quello che praticamente siamo in atto. Diciamo che a noi lavoratori questa la battitura di questa gara non ci ha mai convinto, perché noi eravamo convinti che la soluzione fosse stata quella che doveva essere, cioè l'assunzione presso l'ente utilizzatore, cioè presso la scuola, cosa che è successa a tutti gli altri lavoratori socialmente utili. Però ci convinsero che la strada dell'esternalizzazione del servizio fosse stata poi la strada migliore. Beh, a distanza di anni scopriamo che poi questa, almeno è meglio, scoprono che questa scelta dell'esternalizzazione poi alla fine è stata una strada sbagliatissima. Perché? Perché si sono resi conto che praticamente non solo l'esternalizzazione, questa gara d'appalto portava uno spreco di denaro pubblico, ma poi alla fine insomma loro non rientravano praticamente nei costi della gestione del servizio di pulizia. Noi in effetti da sempre abbiamo rivendicato l'assunzione ATA anche attraverso il sindacato USB, allora RDB, e a maggior ragione la rivendichiamo tuttora ancora di più. Tuttora la rivendichiamo perché noi attualmente siamo in proroga, il nostro appalto è scaduto a giugno, adesso siamo in proroga, cioè partirà una gara a gestione Consip. Si parla di 13 lotti, di cui 9 lotti sono stati già assegnati, altri ancora da assegnare perché ci sono delle... Scusa, stiamo parlando di Roma o un'area diversa? Ecco, magari se facciamo un po' di numeri cerchiamo di capire. Noi parliamo di 11.500 lavoratori ex LSU, quindi 11.500 famiglie che hanno mansioni di pulizia all'interno delle scuole, e ci rivolgiamo a una platea del centro-sud, cioè noi parliamo di tutto il centro-sud, quindi Lazio, Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, eccetera. Ora, che cosa sta succedendo in questo momento? Noi proprio poche ore fa abbiamo avuto un tavolo al MIUR. Sta succedendo questo, che praticamente è stata data una proroga. Da dicembre dovrebbe partire la gara a gestione Consip. E che cosa comporta questa gara a gestione Consip? Secondo noi una qualità del servizio minore rispetto a quella precedente, perché i lavoratori dovranno svolgere le stesse mansioni, se non di più, con un orario ridotto quasi della metà. Ma poi questo causerà anche una riduzione drastica del salario, noi pensiamo quasi il 50% della riduzione del salario. Noi siamo convinti. Scusa, per capire di che si parla, oggi in una scuola quante ore lavora una lavoratrice o un lavoratore delle pulizie? Allora, di media noi facciamo 7 ore al giorno, quindi sono 35 ore a settimana. Solo la Campania ha un'ora in più, però diciamo che in linea di massima le regioni sono disposte su 35 ore settimanali. Quindi sono 7 ore al giorno. In queste 7 ore praticamente noi svolgiamo attività pulizia ordinaria. Durante poi la sospensione didattica si svolgono le pulizie periodiche, che sono praticamente disincrostazione dei pavimenti, dei lavabi, pulizia dei vetri, eccetera, eccetera. Tutto ciò che praticamente di cui ha bisogno la scuola per Noi che cosa diciamo? Che cosa lamentiamo? Al di là della, chiaramente essendo di parte, lamentiamo la preoccupazione di questa riduzione del salario, però non diciamo anche un'altra cosa. È mai possibile che in una scuola il MIUR acquisti un pacchetto di pulizia che prevede che durante la sospensione didattica dei lavoratori della non prestano servizio, perché loro acquisteranno la pulizia soltanto durante l'attività didattica. Durante la sospensione loro dicono che non hanno bisogno della pulizia. A noi ci sembra un po' strano, perché la scuola è fatta di pulizia ordinaria. Per capirci, i bambini vanno a casa, quindi si puliscono i banchetti, le aule, i bagni, eccetera, eccetera. Ma ha necessità anche di una pulizia periodica, come ho detto prima. Permettere che durante la sospensione didattica queste pulizie non vengano svolte, secondo me, non è un servizio esaustivo per la scuola. E abbiamo cercato di spiegarglielo anche al MIUR. Cioè, noi abbiamo detto, noi siamo convinti, secondo il nostro punto di vista, che il pacchetto che state acquistando con la Consip miri più al risparmio economico e meno alla qualità del servizio. Chiaramente questa è la nostra opinione, il MIUR ha opinione contraria. Adesso sembrerebbe che dall'ultima riunione, dall'unione di poche ore fa, che dei due lotti del Lazio un lotto abbia fatto ricorso al TAR, quindi praticamente un lotto sarà sospeso. Ma su che cosa, scusa? Non si capisce questo ricorso su che cosa si è basato. L'appalto, il capitolato d'appalto già uscito? Noi non abbiamo conoscenza del capitolato d'appalto. Diciamo che questa gara Consip noi sappiamo pochissimo. Ad esempio, non sappiamo per quale motivo questi quattro lotti non sono stati assegnati. Abbiamo chiesto spiegazioni, ma non sanno darci delle spiegazioni. Come non sappiamo su che cosa si basa il ricorso di questo lotto del Lazio. Sappiamo semplicemente che, almeno poche ore fa ci hanno detto, che un lotto del Lazio ha fatto ricorso, e che per questo motivo, ricorso al TAR, per questo motivo si attenderà la decisione sulla sospensiva per questo lotto. Il lotto che dovrebbe partire, e forse qui apriamo un capitolo per la Regione Puglia, il lotto che dovrebbe partire a breve è la Regione Puglia, quindi mi risulta che proprio in quella regione in questo periodo c'è maggiore tensione, proprio perché sarà la Puglia che praticamente dovrà partire per prima con questa gara gestione Consip. Sì, ne parleremo insomma con una lavoratrice tra poco in collegamento telefonico, perché anche ieri, appunto, in corrispondenza proprio di questo incontro qua a Roma al Ministero, sotto la Regione Puglia c'è stata una manifestazione, insomma, in cui c'è stata anche la polizia che ha caricato con i manganelli, sì, le lavoratrici e i lavoratori che erano lì davanti alla regione. Sì, il paradosso che mi fa sorridere, per non usare. Noi in questi giorni assistiamo per televisione, sentiamo tanto parlare di questa manovra del cuneo fiscale, no? Insomma, che dovrebbe portare soldi nella busta paga ai lavoratori. Allora io dico, siamo veramente ridicoli, perché noi XLSU ad esempio avremo, attraverso questa manovra, magari una decina di euro in più in busta paga, però attraverso la gara Consip poi ce ne toglieranno più di 400. Quindi a me mi sembra veramente ridicola questa campagna politica, no? sul cuneo fiscale, no? Sembra che praticamente, cioè, da un lato si cerca di far intendere agli italiani che praticamente si sta cercando di fare di tutto per non portare avanti politiche di austerità, eccetera, eccetera, però alla fine poi di fatto, almeno lo diciamo noi, è che se l'SU mi dai 10 euro o poco più in busta paga con questo cuneo fiscale, me ne togli 400 con la gara Consip. Insomma, siamo un poco più seri, cerchiamo di fare politica veramente che abbia una funzione pubblica, che serva veramente, insomma, ai lavoratori, all'economia del paese. Noi dicevamo una cosa in Campania, abbiamo avuto un incontro anche con il sindaco De Magistris, cercando di avere anche degli incontri con tutto l'ANCI, dicevamo questo: non è possibile permettere che in Campania siamo 5.000 famiglie, 5.000 lavoratori che praticamente sono investiti da questa prossima riduzione di salario. Noi pensiamo una cosa, che 5.000 famiglie messe alla fame con poco più di 500 euro al mese, sicuramente questo si rifletterà sull'economia delle regioni. Allora non è possibile che i sindaci voltano la faccia dall'altra parte, quasi a far intendere che non dipende da loro. È vero che le decisioni vengono prese a Roma, però se noi continuiamo a fare questa politica di girare la faccia dall'altra parte e poi cerchiamo le soluzioni attraverso, che ne so, il rilancio dell'Alfa Romeo con l'acquisto della Panda o altro ancora, quando poi insomma dall'altro lato si affamano i lavoratori con stipendi di poco più di 500 euro al mese. Io trovo questa cosa veramente vergognosa, veramente vergognosa, perché non è possibile proporre politicamente una soluzione, un razionamento delle risorse portando dei lavoratori con stipendi di 500 euro al mese. Io sarei soddisfatto se Letta o chi per esso campasse un solo mese con 500 euro. Io starò tutta la vita con 500 euro. A me mi basterebbe loro che loro campassero un solo mese con 500 euro al mese. Vorrei farmi spiegare da loro come possono dei lavoratori, delle famiglie con figli annessi, campare con stipendi di 500 euro al mese. Al di là del servizio scarso che si darà alla scuola, perché qua sono due i problemi: riduzione di salario ai lavoratori e scarso servizio alle scuole. Di questo noi ne siamo convinti. Diciamo anche che nelle scuole dove comunque non ci sono le ditte, no? E quindi c'è il cosiddetto organico pieno dei collaboratori scolastici, di fatto però ci sono stati i famosi tagli lineari iniziati dalla ministra Gelmini, per cui di fatto anche rispetto a tabelle di rapporto tra numero degli alunni e numero del personale già si sta sotto in moltissime scuole, no? Quindi poi sì, col discorso che adesso si fanno belli la ministra Carozza sulla questione del, per esempio, delle scuole aperte il pomeriggio, tutti i giorni, la sera, la notte, non è che ci fai tanto con un numero ridotto, e quindi anche su questo poi ovviamente anche la pulizia ne risente, perché poi non riesci nemmeno materialmente se la scuola è, no, sempre attiva, eccetera, e di fatto c'è una carenza. Poi una cosa importante, tu dicevi la pulizia straordinaria, no, e quello a chiunque abita in una casa sa che ci sono momenti in cui vanno fatte determinate pulizie, e queste vengono fatte quando gli alunni non ci sono, per forza di cose, cioè non è che ti puoi mettere a fare i vetri o a pulire bene i pavimenti con gli alunni. Quindi non considerare questo aspetto qui è, come dicevi te, l'altra faccia del problema, cioè quello di scuole sempre non solo più insicure dal punto di vista proprio della sicurezza di chi ci lavora e ci studia, ma anche dal punto di vista dell'igiene. Sì, ma io dico un'altra cosa. Io sono convinto, gliel'ho detto anche poche ore fa al MIUR, al direttore del MIUR, questo pacchetto di pulizia loro in realtà non l'hanno deciso e scelto assieme agli addetti ai lavori. Gli addetti ai lavori chi sono? I dirigenti scolastici, no? Io non sono non sono un ministro, oppure non sono un parlamentare, non sono un politico, però se dovessi io fare qualche cosa per la scuola, io prenderei addetti ai lavori e chiederei a loro quali dovrebbero essere, secondo il loro punto di vista che vivono alla scuola, le caratteristiche utili veramente alla scuola. Ecco, io vi posso dire che ho parlato con vari dirigenti scolastici e sono tutti quanti per l'internalizzazione del servizio di pulizia, cioè sono tutti quanti nel dire che questi lavoratori dovrebbero essere assunti, come doveva essere nel 2001, come collaboratori scolastici. Quali sarebbero i benefici? Anzitutto un beneficio della scuola, perché il servizio verrebbe gestito in maniera migliore, perché sarebbe gestito tutto direttamente dal dirigente scolastico. Quindi non ci sarebbe più questo passaggio di mano fra il consorzio e il dirigente scolastico. Si darebbe quindi una pulizia qualitativamente migliore, perché voi pensate che dei lavoratori devono prestare servizio alle 2 di pomeriggio e devono smontare alle 9. Voi vivete la scuola come me, sapete che ci sono dei progetti fino alle 5, alle 6. Che cosa dobbiamo fare noi lavoratori? Attendere fuori, perché non possiamo stare dentro la scuola, attendere, si fanno i progetti, poi noi entriamo. Ma va bene, ma è possibile gestire un servizio in questo modo? Questo perché? Perché praticamente loro non hanno minimamente tenuto conto delle vere esigenze della scuola. La soluzione è una sola, è inutile che ci girano tanto attorno. La soluzione è mandare a casa le ditte, che sono il vero spreco, perché poi di tutto questo appalto miliardario ai lavoratori vanno, abbiamo detto, poco più di 500 euro al mese. Allora lo spreco non sono i lavoratori che pigliano 500 euro al mese o attualmente 800 euro al mese, ma sono gli utili delle aziende. Allora diciamo qualità, dignità alla scuola, dignità economica e sociale ai lavoratori, e vedrete che anche il nostro stesso paese ne guadagnerà, perché affamare i lavoratori secondo me non fa bene a nessuno, non fa bene a loro, perché vi faccio una premessa: è mai possibile secondo voi che un lavoratore di punto in bianco si vede ridurre il salario alla circa la metà, gli si impone di fare lo stesso lavoro con la metà dell'orario, un lavoratore si mette e fa zitto e muto e si fa, allora ci saranno sicuramente dei disagi all'interno della scuola, tutto a discapito dei bambini, delle maestre e dei lavoratori. Comunque questa è la condizione generale da quando sono partite le esternalizzazioni, tutta la miriade di contratti, perché questa ormai si calcolava non so quante centinaia di migliaia di lavoratori del pubblico impiego in generale, no? Che non sono precari o comunque sono esternalizzati e così via, e quindi la lotta fondamentale è proprio quella che dicevi tu, quella di essere assunti. C'è stata anni fa un'inchiesta da parte dei lavoratori e lavoratrici dei Cobas del Policlinico che ha dimostrato, cifre alla mano, che fare lo stesso poi lavoro che fanno i dipendenti dell'ospedale a lavoratori che dipendono da cooperative è sostanzialmente uno spreco. Il discorso è che poi alla fine, oltre a fare mangiare, usiamo questo termine che può sembrare qualunquista ma poi è quello, una miriade di cooperative rosse o bianche che siano, e che quindi hanno tutto l'interesse a lucrare su questo, significa che poi tu, quando hai deciso che risparmi, che tagli eccetera, non sei tu che licenzi, non sei tu che mandi i lavoratori, l'appalto è questo e se la vede la cooperativa, cioè sono lavoratori che alla faccia della giusta causa, dell'articolo 18 eccetera eccetera, poi alla fine vanno e vengono come decide chi tiene i cordoni della borsa. Farei una breve pausa musicale e poi continuiamo sempre su questo argomento. I peli preghi bianchi, ferli palanchi, ferli palanchi, sur pedrum, dali peli preghi bianchi, ferli palanchi, canduma ha. Ascusa sur pedrum, salem fatti buler, erali premi volti, erali premi volti. Ascusa sul padron, salem fatribuler, ierali premi volti, senza ievun suma fer. Sul padron, dali belli preghi bianchi, ferli palanchi, sul padron, dali belli preghi bianchi, ferli palanchi, canduma ca. Prema arrancao, me dopo asciancao, e adesso che l'em tot via prema arrancaum e dopo asciancaum e adesso che l'em tot via il salute me pondem via sur pedrum dali belli preghi bianchi ferli palanchi sur pedrum dali belli preghi bianchi ferli palanchi canduma ca. Va più a mesi e nemmeno settimane, lava pochi giorni e non va più a mesi e nemmeno settimane, lava pochi giorni e poi dopo andiamo qua. Sur pedrum dali belli preghi bianchi, ferli palanchi, sur pedrum dali belli preghi bianchi, ferli palanchi, canduma ca. E torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa, l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, stiamo parlando di pulizie delle scuole, di ditte che lavorano nelle scuole, di lavoratori e lavoratrici che lavorano appunto per queste ditte o per queste cooperative e che stanno portando avanti una vertenza proprio in questi giorni. Ne stavamo parlando qui con un compagno in radio e adesso abbiamo anche una corrispondenza invece da Taranto con una compagna della SLAI Cobas delle pulizie. Pronto? Sì. Ciao. Pronto, ciao. E senti, ci vuoi aggiornare sulla situazione perché sappiamo che in Puglia c'è una situazione specifica rispetto a questa vertenza. Sì, infatti la Puglia è la regione più penalizzata rispetto al resto dell'Italia. La Puglia, tra tutte le province, ha sui 3.400 sono i lavoratori che lavorano dalle varie ditte cooperative. Ieri in pratica a Bari c'è stato un sit-in sotto il provveditorato di, appunto, di tutti i lavoratori provenienti dalle varie città della Puglia. E niente, c'è stata data una risposta vergognosa dal vice provveditore La Cavalleri, che quando sono usciti i sindacati ha detto: no, non è di nostra competenza, qua non c'è niente da fare. Allora giustamente i lavoratori si sono tutti incavolati, ribellati. Noi dello Sly Cobas in primis ci siamo attivati per protestare in maniera più dura. Abbiamo detto ai lavoratori, che erano parecchi, di andare sotto la regione Puglia, di occupare, di far sentire la nostra rabbia, perché la situazione è veramente grave. Ci sono realtà diverse, a Taranto ci vogliono ridurre l'orario a 3/4 d'ora addirittura, cioè la situazione è veramente vergognosa. Siamo andati alla regione incarogniti, abbiamo cercato di occuparla, è intervenuta la polizia, i celerini come al solito, manganellate a destra e a sinistra, alle lavoratrici, a me personalmente pure, mi hanno dato un sacco di manganellate. E insomma, poi insulti, minacce, oltretutto i sindacati confederali, specialmente la CGIL si è comportata in un modo vergognoso, mi ha boicottato in tutte le maniere, mi insultavano, mi minacciavano per non farmi salire a partecipare ai tavoli concertativi, mi strappavano la bandiera e me la gettavano nel cassonetto, hanno impedito anche fisicamente che io alla regione, dopo che le acque si erano calmate, che sono saliti a parlare con il presidente della giunta Entrona, mi hanno impedito proprio fisicamente di salire. Guarda, una cosa veramente indecente. Perché, scusa, qual è la posizione dei sindacati confederali? I sindacati confederali sono sempre, come al solito, per gli accordi, per fare le cose sotto per sotto, di nascosto, e non vogliono testimoni. Ce lo fanno in tutte le manifestazioni, in tutte le lotte che facciamo a Taranto in special modo, però ieri sono stati anche quelli della CGIL di Bari, oltretutto, che ci hanno anche gli altri miei compagni, che proprio ci hanno boicottato in una maniera proprio indecente. È veramente vergognoso il comportamento di un sindacato che invece dovrebbe cercare di andare insieme agli altri sindacati per la tutela dei lavoratori. Invece purtroppo non è così, specialmente nel nostro settore, anche anni addietro, per colpa dei sindacati confederali, noi abbiamo subito dei passi indietro, oltretutto. Loro si erano accordati per la cassa integrazione, noi invece come Sly Cobas chiedevamo il ritorno all'orario normale di lavoro, noi siamo costretti a fare 2 ore di lavoro e 2 ore di cassa integrazione. Adesso arriveremo a 3/4 d'ora, insomma, vedi tu. Poi comunque, quando sono scesi, hanno detto che il presidente, appunto, della regione, della giunta regionale, ha chiamato Roma e ha spiegato che, visto che stavano per problemi di ordine pubblico, bisognava fare qualcosa. E a Roma hanno risposto positivamente, che rivedranno la questione in questi giorni e che comunque giorno 7 ci sarà al Consiglio regionale, cioè sarà messo all'ordine del giorno la nostra questione. Cioè la questione quindi dei lavoratori tutta la regione. Della Puglia, sì. Siamo riusciti, purtroppo ti devi rendere... Devi diventare un problema di ordine pubblico per vederti ascoltato, è per aver tutelato un diritto così basilare come il diritto al lavoro. È vergognoso, guarda, io non ho parole, guarda, veramente. Senti, noi ti ringraziamo molto e continueremo come radio, lo sai, a seguire questa questione, insomma, dentro all'ora di buco e anche in altri spazi radiofonici. Sì, adesso ci saranno altre, insomma, faremo altre azioni, vedremo un po' com'è la risposta che avremo dalle istituzioni, come ci dobbiamo muovere, cosa ci sarà da fare. Va noi bene. Non ci fermeremo di certo. Noi per ora ti ringraziamo e come sai, insomma, questi grazie. Microfoni sono aperti. Grazie a te. Grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Coraggio, e ma chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. Vai coraggio. Figlioli han fame, chiedono pane, anch'io da socialista, mi voglio vestire, riprendiamo e adesso insomma vorremmo parlare con il compagno delle prossime iniziative, insomma le iniziative che ci saranno dopo insomma questo muro contro muro che c'è stato con i rappresentanti del Ministero dell'Istruzione. Noi come Unione Sindacale di Base, come USB, proclameremo a breve uno sciopero nazionale. Io volevo un attimo dire una cosa, che il 24 ottobre si è svolta una riunione al Palazzo Chigi tra MIUR, il MEF e la Presidenza del Consiglio, per dove praticamente hanno portato all'attenzione al Palazzo Chigi all'attenzione le nostre problematiche, cioè le nostre rivendicazioni, tutto ciò che praticamente oggi vi ho detto qua praticamente è stato riportato là, cioè tutte la stessa soluzione che noi portiamo, l'internalizzazione del servizio. Quindi intanto partiremo con questo sciopero nazionale. Parallelamente abbiamo il Movimento 5 Stelle che sta presentando un emendamento sempre sull'internalizzazione del servizio attraverso l'assunzione ad di questi lavoratori. Dobbiamo dire che attraverso la figura del parlamentare prima Luigi Di Maio e poi Luigi Gallo stiamo avendo un aiuto su questa vertenza. Sicuramente poi partiremo con tutta una serie di agitazioni territoriali, perché non ci sta bene assolutamente anche la minima riduzione oraria dei lavoratori che sono già al di sotto con la soglia di povertà, lavoratori che percepiscono poco più di 800 euro, non si può permettere politicamente per proporre soluzioni che riducono ancora un salario così, così povero, così basso. Quindi noi siamo, come Unione Sindacale di Base, siamo contrarissimi, non permetteremo la minima riduzione di salario ai lavoratori e faremo tutto ciò che praticamente possiamo fare. Come noi già dal primo settembre siamo in stato di agitazione sulle scuole, abbiamo già nello sciopero generale del 18 ottobre che si è svolto proprio qui a Roma, la nostra categoria è stata già protagonista, abbiamo denunciato mediaticamente, perché questa è una fase di denuncia mediatica che noi stiamo portando avanti. Anzi, approfitto per ringraziarvi per l'attenzione che state dando a questa categoria, a questa problematica, e continueremo su questo filone di denuncia mediatica e, cercando insomma sperando che insomma questo emendamento del Movimento 5 Stelle venga quantomeno discusso e preso in considerazione per quanto riguarda la soluzione, che non è inammissibile. Sono solidale con la collega della Puglia, perché è inammissibile caricare dei lavoratori che non fanno altro insomma che rivendicare un diritto, insomma, quale credo che non rivendichiamo. Fra l'altro, discorso che volevo aggiungere, sicuramente banale, però anche forse bene insomma ricordarlo, che questa questione dell'esternalizzazione, oltre a tutto quello che è stato detto, rende come sempre anche molto più complesse le lotte, nel senso che unire la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici delle pulizie a invece la lotta di chi lavora dentro le scuole è molto difficile, quasi impossibile, perché è molto difficile riconoscersi come lavoratori e lavoratrici che stanno nello stesso posto, come nella realtà è. Non so se voi siete riusciti invece a creare. No, cioè, le difficoltà ci sono, ma io penso come, così come nella nostra categoria, così anche penso nelle altre categorie, una difficoltà che secondo me vive proprio il nostro paese in questo momento, cioè molta sfiducia, si passa dalla sfiducia alla rassegnazione, questa è la nostra, almeno quella che noi avvertiamo. Sono sfiduciati anche da, diceva la collega, insomma, giustamente, è stata osteggiata da chi? Da sindacati, cioè, questa è gravissima come cosa, cioè, va bene piattaforme diverse, va bene punti di vista diversi, ma che dei sindacati osteggiano un altro sindacato che sta là per difendere i lavoratori, per me ha ragione la collega, è una cosa veramente vergognosa. Da questi avvenimenti ecco che poi nasce la sfiducia, la confusione, perché poi i lavoratori alla fine non ci capiscono più niente, no? Chi ha ragione? Ha ragione, che ne so, CGIL, CISL, UIL che dice non vi preoccupate, metteremo tutto a posto, o ha ragione il sindacalismo di base che... Siccome i lavoratori, insomma, se non credessimo che i lavoratori e le lavoratrici hanno pure un cervello e soprattutto insomma dei bisogni concreti, siccome io ho trovato, mentre cercavo di documentarmi su questa questione, una cosa della Federazione della Conoscenza, come si chiama adesso, della CGIL, addirittura del 7 marzo 2011, dove si parla di questo problema proprio degli appalti delle pulizie, che il ministro Gelmini ha già ridotto del 25% la spesa degli appalti, noi vogliamo e adesso siamo a questo punto, quindi c'è poco da dire a chiacchiere e nemmeno tanto a quelle, poi nei fatti la situazione è ancora peggio di quella del 2011. No, peggio sicuramente, no, ma infatti il nostro sconcerto è questo. Noi sono è dal 2010 che praticamente allertiamo le istituzioni, gli stessi lavoratori, che la gara Consip avrebbe poi portato a una riduzione di salario, perché comunque la Consip ha una funzione ben precisa, quella di razionalizzare le risorse, insomma. Quindi insomma, la Consip dovunque è andata a razionalizzare le risorse in qualsiasi appalto della pubblica amministrazione ha tagliato, quindi insomma non è che si doveva aspettare che si arrivava al 2013 per accorgersi che poi la Consip avrebbe tagliato i salari ai lavoratori. Se ci stanno dei sindacati che riferiscono questo ai lavoratori, sono in malafede, perché la Consip la conosciamo tutti, non è che ce la devono spiegare, sappiamo la funzione della Consip. Certamente la Consip non sta là per far guadagnare soldi ai lavoratori, questo è sicuro. Quindi noi è dal 2010 che allertiamo i lavoratori, spieghiamo, quindi diciamo che gli iscritti all'Unione Sindacale di base non sono meravigliati da quello che sta succedendo. Chi sono meravigliati sono quelli che sono magari iscritti a sindacati come CGIL, CISL, UIL, a cui magari insomma giustamente molti lavoratori sono anche arrabbiati, perché dicono come mai l'Unione Sindacale di base sono 4 anni che dice questo e noi ce ne stiamo accorgendo adesso. noi a casa non abbiamo nessuna maga, non abbiamo nessuna, voglio dire, nessuna sfera di cristallo. Abbiamo semplicemente l'onestà di valutare i fatti e da quei fatti praticamente noi traiamo delle conclusioni. Ad esempio, oggi io posso dire che con la Consip si avrà una riduzione di salario, magari non vi posso dire che i lavoratori verranno portati a 400, a 500, non vi posso dire, non posso entrare preciso nello specifico di quanto avrà, però so che ci sarà una drastica riduzione di salario ai lavoratori. No. Non saranno 400, saranno 500, 550, voglio dire, siamo là. Non è che, cioè, non è possibile che ci sono dei sindacati che stanno in stato di agitazione, stanno facendo sciopero ogni anno, in ogni mese, noi facciamo, sono 4 anni che facciamo quasi uno sciopero al mese. Non è possibile, secondo il mio punto di vista, che alcuni sindacati, alla fine, insomma, sembra che si accorgano, dice, ma noi non sapevamo, non ci aspettavamo, perché nei verbali che abbiamo fatto noi abbiamo scritto che si doveva garantire il salario ai lavoratori, eccetera eccetera. Ma voglio dire, cioè, ognuno fa attività sindacale, non è che la Consip, voglio dire, penso che l'abbiamo incontrata anche in altre vertenze la Consip, no? Voglio dire, gestisce un poco tutti gli acquisti della pubblica amministrazione. Non è che poi alla fine, cioè, questa meraviglia a me sembra strano, sinceramente. Sì, è malafede, insomma, la meraviglia. No. Sicuramente riprenderemo, perché insomma la lotta è in corso, quindi sicuramente ci aggiorneremo. Allora, adesso ringraziamo moltissimo il compagno e un pochino di musica e poi qualche spigolatura, chiamiamola così. Insomma, abbiamo meno di una decina di minuti, però appunto, visto che il ruolo dei sindacati confederali e non solo per quanto riguarda la scuola, insomma, già A parte ne abbiamo parlato tante volte, ma insomma anche oggi parlando di questo argomento delle pulizie nelle scuole, delle ditte eccetera, di questi lavoratori praticamente ridotti alla fame, insomma continuiamo a dire come si comportano. Allora, c'è stata ieri una manifestazione, diceva il sito della CGIL Scuola, e andiamo a vedere, in realtà era un incontro al centro congressi Cavour, che non è nemmeno tanto grande, e dove si è stabilito di fare veramente gli sfracelli. E quali sono questi sfracelli? Allora, è uscito un comunicato che indice una manifestazione per il 30 novembre 2013. Siccome si parlava anche di sciopero, almeno c'erano questi titoli pure su qualche giornale, sono andata a vedere, il 30 novembre è sabato. A meno che non facciano come hanno fatto altre volte, di indire lo sciopero il sabato, cioè perché, quando i lavoratori fanno festa. Sì, perché qualcuno comunque lavora, insomma, il sabato ancora nelle scuole, accidenti se lavora, insomma. Però in effetti moltissime scuole non lavorano, non solo la primaria, sì, ma medie, non solo i comprensivi, ma anche molte scuole che hanno cambiato i programmi e quindi, insomma, il sabato a esaurimento, insomma, che ormai sono esauriti quelli che andavano a scuola pure il sabato. Quindi già, a meno che non vogliano fare questa cosa, ma non si parla di sciopero, si parla di manifestazione. Quindi indetta insieme tutti i confederali più SNALS, Gilda e chi più ne ha più ne metta, mi sa c'è pure l'UGL, no, dunque CGL, CISL, UIL, SNALS, CONFSAL e Gilda, ecco, no, l'UGL non c'è. E poi si parla di uno sciopero che ci sarà, non ci sarà, eccetera. Gli argomenti sono, fra l'altro, alcuni di quelli che insomma abbiamo sollevato e continuiamo a sollevare, ed erano anche all'interno dello sciopero del 18 scorso dei sindacati di base, quindi la questione dei blocchi contrattuali, che però qui è messa molto più morbida, no, a incursioni legislative in materia contrattuale, nel senso che si ventila l'ipotesi di fare un contratto normativo e ovviamente non economico. E poi insomma altre cose che vi risparmio. Quello che vogliamo evidenziare è che prendo lo spunto da una frase bella che ha detto la donna che abbiamo sentito per telefono dalla Puglia: se non diventiamo un problema di ordine pubblico non ci ascoltano. E insomma questo anche come risposta non solo ai sindacati, che se invece di litigare coi poliziotti e coi dirigenti piano a bastonate i lavoratori e le lavoratrici, e che insomma il problema è anche quello che se ne è parlato tanto in questi giorni all'indomani del nulla che poi è successo nella manifestazione del 19 ottobre, che bisogna esprimere garbatamente le proprie opinioni, che bisogna essere democratici, ma la violenza, per carità, no, manco storcere troppo la faccia o urlare troppo forte. Io faccio mia, nel senso più ampio possibile, proprio la frase che ha detto la non so se chiamarla compagna, non penso di sì perché si era di questo sindacato, la compagna di Bari, è proprio così, con tutti diciamo le conseguenze che un'affermazione del genere comporta: se non diventiamo un problema di ordine pubblico non ci sente nessuno. E questo c'ha ovviamente tantissime sfaccettature. Per concludere, io volevo dare anche una notizia che è importantissima e che riguarda ricorderete forse la vicenda del liceo Darwin di una, non era proprio di Torino, di Saronno, non me lo ricordo bene, comunque in provincia di Torino, dove nel 2008 il crollo di un controsoffitto, che detta così non rende l'idea, cioè sono venute giù quintali di materiale edilizio in una classe, uccise un ragazzo, Vito Scafidi, e ne ha reso paraplegico un altro. C'era stata una sentenza d'appello con una condanna molto mite, beh, adesso una sentenza, scusate, di primo grado, adesso c'è stata la sentenza d'appello e sono stati condannati con pene comprese tra 2 anni e 2 mesi e 4 anni dei funzionari della provincia, che è quella poi con il suo ufficio tecnico che è preposta insomma a tutto quanto riguarda la struttura della scuola, oltre a 3 insegnanti responsabili della sicurezza della scuola, perché nelle scuole c'è un responsabile, in questo caso erano 3, della sicurezza, che è cosa diversa dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quindi poi oltre a provvisionali di risarcimento alle famiglie. Insomma, una sentenza importante per quello che ci può poi a noi interessare delle sentenze, però la questione ancora una volta per quanto riguarda la procura di Torino, e come spesso il procuratore Guariniello ha detto anche in occasione di sentenze quali quella della Thyssen, in cui furono condannati a 16 anni per omicidio, non mi ricordo qual è la formula, insomma, e poi quella dell'Eternit per quanto riguarda l'amianto, che sono sentenze che soprattutto devono servire a mettere in campo, a far capire, a far sapere che esiste un problema e che va affrontato. Nelle scuole la sicurezza è qualcosa che è molto differente da quello che accade nei luoghi di lavoro, con tutto quello che possiamo dire ovviamente sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo una legge meravigliosa che però non viene poi molto spesso applicata, ma per quanto riguarda le scuole lo stesso Guariniello, lo stesso giudice Guariniello ha detto che se le situazioni delle scuole fossero in strutture lavorative queste ultime verrebbero magari chiuse subito, mentre nelle scuole si continua di proroga in proroga, e lui ha detto è un problema perché questa sentenza spero che faccia capire a tutti, compresi gli enti pubblici e le stesse scuole, che la sicurezza è fondamentale per i nostri figli e nipoti, e ci mancherebbe, insomma, no? Perché poi fra l'altro partiamo da bambini molto piccoli, comunque in genere a minorenni che magari non si rendono conto, sono affidati allo Stato, uno dice meglio di così che ti può capitare invece, e anche la responsabilità dei dirigenti scolastici che di questa cosa poi se ne fregano, tirano a campare e sperano sempre che non succeda niente. Ti pare che c'è un incendio dentro scuola? Io l'ho sentita queste frasi, oppure un terremoto, quando a Roma non viene il terremoto qualcuno diceva perché c'è il Papa, no, una volta. E con questo insomma penso che abbiamo finito, ci è rimasto un minuto, ma lo dedichiamo ai saluti e ai nostri contatti. Sì, i saluti insomma sono quelli che vi rimandano a martedì prossimo alle 16 dai microfoni di Radio Onda Rossa come ogni settimana. I contatti, vi ripetiamo, è la nostra mail che è oradibuco@ondarossa.info, oradibuco.noblogs.org il nostro blog su cui trovate molti documenti, notizie e anche le trasmissioni che magari vi siete persi e perse. Vi lasciamo alle trasmissioni degli 87.9 di Onda Rossa a partire dal martedì autogestito da Femministe e Lesbiche. We don't need